somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se un uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per ogni problema del cuore. La somma dei cateti costruiti su due gambe è sempre quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se un uomo quadrato sei tu. Inventami un sistema, il nuovo teorema per vivere solo d'amore. Costruiti cuore a cuore, si impara senza libri, professore. Pitagora, Pitagora, se un uomo sensato sei tu. Impara il mio sistema, il nuovo teorema, urlando a tempo di rock. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa. Pitagora, Pitagora, se un uomo quadrato sei tu. Inventami il sistema, il nuovo teorema, per ogni problema del cuore. Per vivere solo d'amore, urlando a tempo di rock, per vivere solo d'amore.